I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Settimana clou per la manovra 2017, la legge di bilancio si avvia ad ottenere il primo via libera della Camera, il voto è atteso durante il weekend, al più tardi entro lunedì prossimo, visto che poi si entrerà in un'altra settimana molto calda, quella che porta al referendum costituzionale di domenica 4 dicembre. Comunque, dopo le prime votazioni di ieri, a partire da oggi verranno prese in esame le proposte di modifica del governo. Per azzardare qualche previsione, dovrebbe arrivare la proroga di Opzione Donna, il sistema che consente alle donne che optano per il sistema contributivo di lasciare il lavoro al compimento dei 57 anni con 35 anni di contributi. Sempre sulle pensioni dovrebbero passare le norme per agevolare l'accesso all'APE, l'anticipo pensionistico, riducendo la soglia contributiva da 36 a 35 anni, e altri interventi sono attesi, ad esempio sul pacchetto povertà, con l'intenzione di rafforzare le misure di sostegno a chi vive in condizioni di disagio. Molte altre modifiche naturalmente arriveranno. Parlando ancora di manovra, domani il Senato avvia l'esame del decreto fiscale, quello che tra l'altro contiene la rottamazione delle cartelle e l'addio a Equitalia. Decreto che con i suoi 4,5 miliardi di nuove entrate è parte integrante della manovra per il 2017. Il Senato non dovrebbe apportare modifiche al testo. Resta però da capire quando arriverà il voto finale. Naturalmente il governo, per evitare rischi, spera di poter chiudere la pratica prima dello stop per il referendum. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. Democratici e repubblicani hanno sempre attinto denaro da Wall Street che, come è noto, ha finanziato a piene mani Hillary Clinton e alimentato ogni genere di paura sui rischi di un crollo dei mercati finanziari in caso di vittoria di Trump, un crollo che non c'è stato. Ma con la vittoria del controverso esordiente, non solo la borsa ha fatto subito cassa prima che svanissero le paure, ma poi addirittura ha rilanciato gli acquisti del mercato sugli stessi titoli che aveva venduto, sperando così di guadagnarci due volte. E anche se i nuovi record gonfiano ulteriormente una bolla speculativa già enorme, la borsa che sale fa comodo a tutti, quindi nessuno ha protestato. Ma guardando bene si scoprono vere e proprie assurdità. Una di queste è la performance di due grandi operatori americani delle prigioni private e dei centri di detenzione per immigrati illegali. Si chiamano Geo Group e Corrections Corporation of America. Bene, dal Trump Day hanno guadagnato il 30% l'una e il 40% l'altra. Una corsa straordinaria per due titoli sonnolenti nell'amministrazione Obama. Il motivo? Perché a un comizio Trump ha detto che oltre al muro avrebbe messo in galera anche i clandestini e gli immigrati con precedenti penali, anche se avesse comportato mettere in cella 2 o 3 milioni di clandestini. Parole sue. Parlava sul serio? Per la borsa sì. Fatti i calcoli sulla disponibilità attuale di celle e sul numero dei clandestini attualmente in carcere, Wall Street ha cominciato a comprare i titoli di due big delle prigioni, contando sul fatto che Trump ora onori la promessa. Il problema è che sia Trump che la borsa sanno bene che i clandestini in America sono circa 900.000 e 600.000 gli immigrati regolari con condanna penale alle spalle. Rifatti i conti e applicato un minimo di realismo, anche se Trump lanciasse i rastrellamenti a tappeto nelle prigioni private, non entrerebbero più di 400-500 mila immigrati. Il rally dei titoli carcerari, insomma, ha ben poca giustificazione. Ma tant'è, se la gente perde, nelle celle vuote non ci finiranno comunque i broker di Wall Street. Loro lo avevano detto che Trump è un tipo inaffidabile. Nel caso, si spera solo che qualcuno lanci la proposta di metterci loro. Firmerebbero tutti subito. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.